Allora, questo incontro è una coda dei tre che abbiamo fatto, che erano la presentazione del libro di Marco Nocente, Non è più il carcere di una volta. E questa cosa ci è venuta in mente un po' in corso d'opera perché nel libro, per sua stessa missione, mancano alcune cose anche sul carcere di oggi degli adulti, ma manca completamente la parte dei minori. Perché lui si basa sul materiale che non include questo genere ma non c'è, diciamo, lo scambio epistolare con i minori risulta che non c'è. Contemporaneamente è un momento, o forse di nuovo si propone come questione, questa in cui i minori sono un pochino sotto l'occhio severo. Di un'autorità penalista e giustizialista in una difficoltà, io direi un po' loro generale, vengono responsabilizzati e in qualche modo diventano anche parte capro espiatorio di alcune delle malanni di questa società. Possiamo dire questo, diciamo, per esempio, per citare degli esempi, il decreto Cutro, il decreto de anti-rave, quindi una serie di normative esplicitamente dedicate alla punizione dei minori che hanno come conseguenza l'aumento della persona dei ragazzi detenuti. È un fenomeno non solo italiano. Sentivo recentemente che in Svezia vorrebbero abbassare a 13 anni l'anno l'età di carcere per la carcerazione dei minori perché hanno anche loro dei grossi, insomma, da una parte problemi, dalla parte probabilmente è un fenomeno simile a questo qua. I minori, io, i ragazzi in generale, io diciamo, non ho alcuna competenza particolare, posso immaginare che facciano da una parte fatica e d'altra parte che siano portatori di una forma di libertà che molti degli adulti hanno perso nel crescere e quindi si trovano in uno stato di difficoltà e di necessità e volontà di muoversi un po', il che produce delle situazioni di attrito anche e che diciamo con cui il cui esito nefasto spesso è l'istituzione giudiziaria e il più nefasto dopo la carcerazione nel carcere minorile. Allora, noi avremo due basta, io la finirei così perché non sono non ho neanche capito preparato di più in materia. Avevamo due interlocutori oltre a tutti voi che avete sicuramente delle, come dire, formazione, informazioni più precise. Una è Irene e una è Paolo e una no, è Marita. Perfetto. Allora loro posso dire, vabbè, lo potete dire anche voi, un po' hanno seguito quelle che sono state degli interventi che hanno seguito la vicenda dei ragazzi del Beccaria dall'esterno, quelle che sono, no, quindi con delle iniziative di supporto, sostegno, contatto e così che sono state, per esempio, che sono state fatte di fronte al carcere del Beccaria. Paolo invece ha fatto un libro tempo fa con una corrispondenza che lui ha avuto con un ragazzo detenuto che in realtà era detenuto di carcere per grande, però che aveva fatto un pezzo nel minorile. E di recente ha fatto un gruppo di questi socioanalisi con Renato Curcio e una serie di ragazzi che sono o sono stati alla Beccaria. In questo caso, per riallacciarci alle tre puntate precedenti, il materiale che lui ha raccolto è abbastanza del tipo di quello su cui ha lavorato Marco, perché Marco ha lavorato su delle materiale epistolare, cioè su delle, la corrispondenza. Il primo libro suo è esattamente sulla corrispondenza. Il secondo libro, in realtà, loro avevano degli incontri con i ragazzi, nel caso lo spiegherà lui, meglio, e però è come se prendessero in consegna alcuni pezzi di parole, di memoria di quello che loro stavano passando là dentro. Giriamo così, il libro nel particolare verrà poi presentato il 6 di dicembre, sempre qua, pomeriggio con un sistema tipo questo di... Basta, io mi zittisco e passerei la parola a Luigi. Allora, io brevemente faccio una panoramica di quella che è la situazione del carcere Beccaria Adano, carcere che sta a Bisceglie e che, sotto il quale negli anni siamo andati parecchie volte. È un carcere che negli anni passati per le attività che mi venivano proposte, eccetera, era anche considerato uno di quei carceri modello all'interno dei circuiti per minori. E da anni la situazione è molto peggiorata invece, e per una questione di spazi, c'era una sezione femminile che è stata chiusa, ci sono dei lavori di ristrutturazione che se non sono finiti stanno finendo, però sono iniziati nel 2008, dovevano durare 3 anni e appunto alcune parti ci sono, cioè alcuni stanno finendo, c'è stata un'accelerata in questi lavori dopo l'evasione del Natale 2022, proprio perché alcuni ragazzi avevano usato le impalcature per arrampicarsi e poi andare fuori, ma appunto adesso parte del carcere ha riaperto. Questo ha portato anche a un aumento dei posti detentivi. Non sono invece aumentati gli spazi comuni e gli spazi previsti dalle attività. Attività che sono sempre meno. Viene raccontato da chi entra nel carcere, come ad esempio educatori, che c'è del grosso ostruzionismo da parte dell'amministrazione carceraria, nell'appunto fare e proporre attività ai ragazzi. L'area che viene più utilizzata è la cosiddetta area verde, che è un campetto in erba sintetica, il campo da calcio. C'è anche un campo da rugby e una piscina all'aperto che però non vengono praticamente mai utilizzate. Come succede nelle carceri per adulti, a fronte di questa carenza di attività e di momenti di socialità, per placare gli animi e sedare anche le rivolte che spesso ci sono, c'è un massiccio consumo di psicofarmaci. Tant'è che chi c'è entrato di Antigone, eccetera, ha raccontato di aver trovato ragazzi in stato catatonico, e la spesa per le benzodiazepine e gli antipsicotici a Milano nel 2023 è stata, ora mi spiace, questo è un articolo che ho trovato, no, però è stata di 8,3 volte superiore alla spesa nell'istituto di Bologna per minori e di 3,3 volte superiore a quello di Firenze. Ora, non sapendo su quali siano i consumi di Bologna e Firenze, è difficile avere un quantitativo preciso, però c'è decisamente un utilizzo maggiore che in altri carceri. C'è Ci sono cinque gruppi di detenuti comuni, ciascuno composto da 12-13 persone, diviso in cinque sezioni, in celle da 1 a 4 posti, molto ristrette, soprattutto chiaramente quelli da 4, eccetera. E due gruppi in trattamento avanzato che sono separati dagli altri. Non c'è invece una separazione fra i minorenni e i giovani adulti, cioè le persone fino ai 25 anni d'età che possono continuare a rimanere all'interno degli istituti per minori. Dunque, secondo il rapporto di Antigone nel 2025 a Milano c'è un tasso di sovraffollamento del 150%, ci sono 82 detenuti su 70 posti regolamentari, di questi appunto una ventina è rappresentata da maggiorenni e solo 11 di questi 82 hanno condanne definitive, tutti gli altri sono in custodia cautelare. La maggior parte dei ragazzi detenuti vengono detenuti per reati come furto, rapina, spaccio di piccole quantità di droga comunque c'è gente che è dentro per un cappellino di Adidas, un paio di Nike, 10 euro, un telefono, eccetera. La metà di questi 82 sono minori stranieri non accompagnati. Questo vuol dire che sono ragazzi soli, che non hanno una rete di supporto all'esterno, ma al di là della rete forse manco due persone che si interessino di loro. La maggior parte dei ragazzi detenuti al Beccaria non ha difensori di fiducia, ma solo d'ufficio, che si interessano abbastanza poco alle loro vicende. I difensori d'ufficio che ci sono raccontano anche loro di venire comunque costantemente anche loro messi in difficoltà dall'apparato dell'amministrazione penitenziaria, li fanno attendere per ore prima di avere i colloqui, eccetera. Questo è un po' il quadro di chi c'è all'interno del Beccaria. Beccaria che, come molti altri carceri per adulti e non in Italia, non ha una direzione fissa da anni, in questo momento non so come sia di preciso, era cambiato il direttore nel 2023, se non ricordo male. E questo cambio nella direzione è anche quello che ha fatto in parte sì che venissero a galla a galla per l'opinione pubblica e anche nelle aule di tribunale tutta una serie di violenze sistematiche che avvengono all'interno di quel carcere. Infatti, nell'aprile del 2024 13 agenti della penitenziaria furono arrestati e 8 in sospesi, indagati per vari reati, cui maltrattamento a danno di minori aggravati dalla minorata difesa e l'abuso d'ufficio, violenza, lesioni, concorso in tortura e in un caso anche abuso sessuale. Le indagini partirono nel 2022 in seguito alle segnalazioni di alcuni genitori, di alcune psicologhe che lavoravano in carcere e del garante dei detenuti per il comune di Milano. Queste si allargarono, per cui dai 21 iniziali diventarono 42 e adesso sono 51 gli indagati. Non so Se siano concluse le indagini preliminari, sinceramente immagino forse di sì, visto che questi 51 sono di fine ottobre 2025 e ci sono stati aggiunti, la maggior parte sono agenti della penitenziaria, ci sono anche i due ex comandanti Francesco Fierone e Domenico Rondinelli. E ci sono anche due ex direttrici, Maria Vittoria Menenti e Cosima Buccogliero, rispettivamente in carica fra il 2018 e il 2022 e 2022-2023, una ex vice direttrice e medici e infermieri. Quindi si evidenzia proprio un intero sistema che permetteva, legittimava e poi copriva e insabbiava le torture sui ragazzi, per cui le ex direttrici sono accusate di essere state presenti e aver assistito ad alcuni pestaggi e non aver detto niente, dirigenti medici e infermieri che visitavano i ragazzi e li lasciavano. Pur se questi avevano subito dei violenti pestaggi, venivano dimessi, non dimessi, venivano, come si dice, congedati con prognosi di 0 giorni. E ci devono essere anche i cappellani, forse erano stati inseriti e poi stralciati, ma comunque anche loro per essere stati ritenuti conniventi e non avere mai denunciato le violenze. Noi, diciamo, in questi anni ci si è ritrovati in diverse occasioni, in diversi compagni e compagne per organizzare dei presidi o dei saluti fuori dal carcere Beccaria. Questo perché la detenzione di qualsiasi essere umano sia in visa, compresa quella dei ragazzini, e oltre che per portare solidarietà a chi è rinchiuso, altri momenti in cui siamo tornati sono stati quelli successivi a episodi particolari, insoliti, come ad esempio rivolte, proteste e evasioni. Come vi dicevo prima, la prima grossa, cioè la più grossa e la prima che io mi ricordo. E io non sto in questa città da tanto, quindi sicuramente prima ce ne sono state altre. Era stato il Natale del 2022, quando, complici appunto questi eterni lavori di ristrutturazione, in sette evasero. Nel 2024 ci furono sei evasioni e purtroppo tutte vanno a finire più o meno che i ragazzi vengono recuperati, però è un carcere in cui succedono mo molte cose e spesso appunto ci sono proteste dagli incendi dei materassi al rifiuto di entrare dopo l'ora d'aria, questo per le condizioni detentive che si ritrovano a vivere per i continui abusi e violenze che escono. Chiaramente quando succedono questi fatti, quello che poi si legge sono le lamentele dei sindacati vari della polizia penitenziaria, le ragioni delle proteste spesso vengono taciute, sempre direi vengono taciute, non è difficile però immaginare quali che siano i motivi e se a qualcuno dovessero servire delle prove provate, in questo caso anche ce le abbiamo perché ci sono video e testimonianze che appunto parlano proprio di un sistema strutturale di violenze. direi che. Ciao. Io partirei da quella che è una frase che penso che tanti di noi si sono sentiti dire più volte, dato che diciamo l'età media qua dentro non è proprio bassissima, eccezione fatta per il piccolo che fortunatamente la passa, che è, almeno io l'ho sentita molte volte, delinque ora fin tanto che sei minorenne, no? Che era effettivamente un adagio che aveva sua ragion d'essere tanti anni fa. E anche la mia vicenda personale è partita esattamente così, con una denuncia che in quanto minorenne viene stralciata proprio perché sei piccola, sei minorenne, sono classici atteggiamenti di ribellismo adolescenziale, che però invece oggi vediamo assumere una piega sicuramente più tetra e completamente differente, no? E quindi quello su cui mi interessava soffermarmi era capire quali sono stati questi passaggi, perché c'è stata una gradualità, attraverso cui cambia quello che è l'inquadramento penale del giovane e cambia conseguentemente anche quello che poi è tutta la narrazione socio-economica che ruota attorno ad esso. Chiaramente non sono dei punti esaustivi, ce ne sono tantissimi altri, io ne ho scelti questi quattro attraverso cui raccontare questo cambiamento. Partirò dal 2021, in particolare dall'8 marzo 2021, quindi siamo immediatamente nel post-pandemia, anzi forse siamo ancora un pochino in mezzo. E siamo a Torino con l'operazione Criminal Page. Non so se qualcuno di voi se la ricorda, è quell'operazione che vede l'arresto di circa una trentina di persone, di cui 24 maggiorenni e 13 misure cautelari per minorenni. A seguito di quella che è stata la giornata di piazza del 26 ottobre 2020 a Torino, che insieme con le giornate di Milano e altre città d'Italia aveva visto degli scontri con la polizia e dei saccheggi dei negozi di lusso del centro, a seguito di quelle che erano state le condizioni di restrizione appunto del periodo Covid. Penso che quella sia la prima volta nella storia recente, quantomeno che tra di noi, all'interno degli ambiti di movimento, si sia iniziato a ragionare sul dire: cavolo, 13 misure cautelari per minorenni è una cifra significativa, di cui 24 maggiorenni, c'è cioè una certa sproporzione. E queste 13 misure cautelari sono 12 in carcere, una in comunità, il più piccolo ha 15 anni e quasi tutti sono descritti come giovani di seconda generazione che vengono dalle periferie con i tram, tant'è che alla fine di quella giornata si vedevano chi ha visto appunto queste folle di giovani che correvano per riuscire a prendere l'ultimo tram per poter tornare in periferia a seguito della giornata di scontri. Quindi vengono definite da tutti i giornali come letteralmente come bande auto-organizzate e poi su questa definizione torneremo perché sarà un segno di continuità fino ad arrivare ai giorni nostri, no? Il tratto, diciamo, saliente non è stata solo la quantità di giovani coinvolti all'interno di questa operazione repressiva, ma anche le misure adottate. Quella che spicca sicuramente è il fatto che alle famiglie dei giovani arrestati viene revocato quello che allora si chiamava reddito di cittadinanza. E quindi inizia ad esserci sempre più una delineazione forte di quella che è la responsabilità genitoriale dell'agito del soggetto minore, che si concretizzerà sempre di più fino ad arrivare poi a quello del decreto Caivano. Tratto significativo di questa vicenda, che anche questo è un tratto di continuità, è il fatto che la maggior parte degli arresti dei minorenni sono stati possibili grazie alla ricostruzione ex post giornata, risalendo alle storie Instagram dei giovani coinvolti e ai loro abbigliamenti. E questo è sicuramente un fil rouge che, ahimè, contraddistingue anche gli arresti odierni, soprattutto per i soggetti minori. Vuol dire che non ci stiamo impegnando abbastanza per diffondere una buona cultura, per non farsi arrestare al riguardo. Arriviamo poi nel 2023. 2023, in particolare il 15 settembre 2023, con quello che è il decreto Caivano. Il 15 settembre diventa ufficiale sulla Gazzetta, che riguarda tutto il territorio nazionale. Il decreto Caivano, come penso tutti sappiamo, segue quelle tristissime vicende, di stupri di ragazze minorenni ad opera di altrettanto maschi minorenni. Seguito di cui il governo sceglie di emanare questo decreto legge che ha moltissimi punti, ne elenco alcuni in breve, giusto per ricordarceli. Innanzitutto qui ritorna il tema della responsabilità genitoriale dei ragazzi minori, in questo caso per quel che riguarda l'abbandono scolastico. I genitori possono essere perseguiti penalmente per la dispersione scolastica dei figli. a questi stessi genitori qualora i figli abbandonano la scuola viene revocato quello che adesso si chiama l'assegno di inclusione. E qui vediamo le prime continuità con quel marzo 2021. Altre misure più di carattere prettamente penale sono l'estensione dell'avviso orale anche ai minori di 14 anni. Ricordiamo che l'età della perseguibilità penale in Italia è di 14 anni. Ai maggiori di 14 anni invece abbiamo la possibilità di un giudice di rendere vietati alcuni dispositivi telematici o di applicare dispositivi di controllo parentale sui dispositivi tecnologici, insieme con l'estensione del DASPO urbano, che passa dall'essere di 1 anno a 2 anni per i maggiori di 14 anni. Tratti poi gli ultimi due importanti per quello che è stato un aumento dei soggetti minori in carcere. È la possibilità dell'arresto in flagranza per reati anche di minore entità, come quello del possesso e lo spaccio di armi, scusatemi, di droghe di minor quantità e di armi. In questo caso la pena aumenta di 1 anno, quindi passiamo da 3 a 4 anni di carcerazione possibile. E infine la custodia cautelare. La custodia cautelare passa dall'avere una soglia di pena no, di 9 anni a una soglia di pena di 6 anni. Questi ultimi due elementi, quelli riguardanti la custodia cautelare e gli arresti in flagranza, sono quelli che determinano delle cifre svalorizzative. Nel giro di 1 anno, quindi abbiamo da dicembre 2023 a dicembre 2024, abbiamo un incremento dei reclusi nei IPM, quindi negli istituti penali minorili, sia i minorenni sia i giovani adulti, quelli appunto che hanno un'età inferiore ai 25 ma che permangono all'interno delle strutture detentive per minori, che è del più 48%. Questi sono i dati a dicembre 2024. Scopriremo alla fine di quest'anno qual è l'andamento a dicembre 2025. Sono dati impressionanti, che rispondono poi anche a quello che è una narrazione a livello mediatico di un giovane detenuto che è sempre più alla pagina all'interno delle prime pagine. Arriviamo, tristemente passando, non potevano nominarla dato che oggi è un anno esatto di distanza, il 24 settembre 2024, siamo a Milano, in particolare nel quartiere Corvetto, a quella che è l'uccisione di Rami, vicenda che tutti quanti conosciamo, non sto a riassumerla in questa sede. A 1 anno di distanza, queste due notti di rivolta sono ancora, diciamo, fanno ancora i primi titoli all'interno dei giornali. Si ha sicuramente una presenza di giovani rivoltosi che è ancora più bassa, quindi parliamo di 11-12 anni. Ricordo, che nel 2019, se non erro, mentre montammo un audio con Radio Cane sulla morte l'uccisione da parte della polizia di un giovane albanese durante dei controlli, che si ebbe un'esplosione di rabbia e grazie alle interviste che siamo riusciti a fare a dei compagni albanesi, tutti parlavano di questa età giovanissima delle prime file, no? In cui la componente quasi militante era in secondo ordine rispetto a dei giovani di 9, 10, 11 anni che capeggiavano quella che erano gli scontri con la polizia. E da allora l'opinione collettiva è stata chiaramente di svalorditiva, no? Qualcosa di impensabile per noi qui. E invece, ecco, adesso abbiamo, nell'arco di pochissimi anni, di 5-6 anni, abbiamo un profilo completamente diverso, sicuramente per quello che riguarda le periferie. La vicenda di Rami sicuramente si lega a tutto quello che è stata la narrazione e proprio il dispositivo repressivo che poi viene messo in atto nei confronti di quello che è il filone delle baby gang, della trap, dei Maranza e tutto questo grande calderone che sicuramente ha da essere analizzato meglio per poter capire poi quali saranno le direzioni che prenderà in futuro. Arriviamo poi al 2025, arriviamo a quest'anno. Un evento completamente diverso, quindi non si parla di periferie, ma si parla di uno sciopero generale, si parla dello sciopero generale della Palestina il 22 settembre di quest'anno, siamo sempre a Milano e riprendo quello che è il titolo del giorno stesso del Corriere Milano, che è il seguente, dove vediamo tutta una serie di elementi che tornano in questi quattro eventi chiave e titola: anarchici, virgola, giovani slegati dai movimenti, virgola, italiani di seconda generazione, chi sono i violenti che hanno rovinato l'evento Pro Gaza? Questo titolo secondo me è indicativo perché torna ancora una volta il tema di quelle bande auto-organizzate che è l'elemento di non governabilità che poi è quello che fa più maggiormente paura e di non comprensibilità all'interno di quello che è il classico, diciamo, la classica disposizione politica anche del movimento pur antagonista. E il tema, altro tema forte, è quello degli italiani di seconda generazione. A seguito di questo sciopero generale abbiamo 5 arrestati il giorno stesso in flagranza, di cui 2 sono minorenni, sono studenti del liceo Carducci, si chiamano Mina ed Ettore, hanno 17 anni, gli altri 3 sono maggiorenni di età varia. Hanno 21 e 22 anni. Sì, e uno E l'altro 36. 37, sì. No, ce ne sono quattro più piccoli di risultato. Sono accusati di resistenza aggravata e danneggiamento. Una cosa che mi sono dimenticata di dire, ma pur importante, di quelle 13 misure cautelari dell'operazione Criminal Page, è che l'accusa in quel caso fu di devastazione e saccheggio. Siamo a 2025 ad oggi, devastazione e saccheggio, ritorniamo ai tempi del 2015 con la campagna Scateniamoli a seguito degli arresti per il 1º maggio a Milano, no Expo. Ecco, sono passati 10 anni e vediamo come quelle che erano le preoccupazioni di allora, i ragionamenti fatti riguardo al tema dell'espansione a macchia d'olio del reato di devastazione e saccheggio, reato che ha un minimo di pena di 8 e un massimo di 15 anni, quindi minimi di pena altissimi, all'interno poi di quelli che sono tutti i settori della società e anche quelli dell'opposizione politica, no? E ecco, a distanza di 10 anni possiamo dire, tristemente, avevamo proprio ragione, così è stato. E accuse così importanti ora sono rivolte anche a 13 soggetti minorenni. Torniamo al 22 settembre 2025. Questi studenti vengono arrestati in flagranza, studenti del liceo Carducci, quindi in questo caso sicuramente non stiamo parlando dei soggetti Maranza di cui si parlava prima, che passano 3 giorni al carcere Beccaria, successivamente a quale l'arresto viene convalidato e vengono date delle misure di domiciliari, oltre che un DASPO. Il DASPO permane, i domiciliari, DASPO all'interno del quale è prescritto anche l'impossibilità di passare dalla stazione centrale di Milano, ad esempio, luogo chiaramente importante anche solo per muoversi all'interno della città, e domiciliari che negano la possibilità di recarsi a scuola. Quindi da un lato abbiamo col decreto Caivano la sottolineatura dell'obbligo scolastico e la responsabilità genitoriale all'interno della dispersione, dall'altra abbiamo il 22 settembre una impossibilità per dei soggetti minorenni arrestati di recarsi a scuola. Questo divieto viene revocato il 10 ottobre, quindi in realtà a distanza di poche settimane, ma il DASPO permane tuttora. All'interno di questa vicenda, sicuramente che cosa è importante ricordare? Il fatto che queste misure comunque non hanno trovato del silenzio, diciamo, a seguirle, ma il 23 settembre c'è stato un presidio al carcere Beccaria, di cui si è parlato appunto anche prima, con una presenza molto partecipata, c'erano circa 400 persone e la risposta all'interno delle mura è stata molto molto calda, molto molto calorosa, e subito, diciamo, si è riusciti a legare in maniera forte quello che è il tema della lotta anticarceraria con il tema di liberazione e di resistenza palestinese. Questo sicuramente è stato molto bello. Alla fine del racconto breve che vi ho fatto, e sicuramente non completo, di questi 4 passaggi, a mio avviso chiave, in realtà quello che a me interessava era più che altro porre delle domande per provare ad andare un pochino più in là col ragionamento, se ci riusciamo insieme, perché io da sola sicuramente non ce la faccio, e sono 2 per lo più. La prima è chiedersi se è possibile considerare il sistema penale minorile, ma in generale il sistema penale minorile non solo nella sua applicazione carceraria, ma in tutto quello che poi si concretizza, che è la maggior parte dei casi di, diciamo così, di incontro di un minore con quello che è il sistema della giustizia, quindi fuori all'interno del tribunale, se si può considerare questo sistema appunto come un laboratorio di sperimentazione di quello che poi è il carcere dei grandi, oppure viceversa anche una lente attraverso cui leggere quelle che sono dei cambiamenti sociali in corso, per cui provare a chiedersi se questo inasprimento dal punto di vista autoritario ha una correlazione con il fuori oppure no, e capire qual è il rapporto tra questi 2 elementi. La seconda domanda su cui io ho provato un pochino a ragionare è chiedersi se il tratto distintivo del sistema di giustizia minorile sia qualcosa che è una, diciamo, un lascito che andrà a scomparire, oppure qualcosa che prenderà sempre più piede all'interno di tutto il sistema penale, grandi o no. E questo tratto distintivo è quello del fatto che un'adesione meramente formale non è sufficiente. Mi spiego. L'istituto della messa alla prova, che nel caso della giustizia minorile non è come l'affidamento in prova per la giustizia dei grandi, per cui è qualcosa che precede l'emanazione della sentenza, per cui abbiamo la denuncia, poi abbiamo una messa alla prova che viene valutata come idonea o non idonea, in base all'esito della messa alla prova si ha un'emanazione di sentenza, okay, da parte del giudice. Se la messa alla prova è superata, c'è il perdono giudiziale, oppure si è assolti, qualora non venga superata, allora si va poi a dibattimento e quant'altro, o rito abbreviato che sia. Nel caso del sistema penale minorile, la messa alla prova può venire considerata non superata anche in base a quanto c'è stata un'adesione formale o no di questa. La messa alla prova consta in lavori socialmente utili, colloqui con psicologo, colloqui con educatori, consulenti sociali, colloqui alla famiglia e quant'altro. Dura mesi, se non anni, e capita sovente che venga definita non idonea e che quindi si venga, diciamo, bocciati, tra virgolette, e quindi poi si va alla sentenza perché si dice: ok, tu hai aderito, hai fatto i lavori, hai fatto i colloqui con lo psicologo, hai anche detto sì, effettivamente non lo devo fare poi più, ok? Quindi spessissimo la storia della dissociazione del pentimento che si apre all'interno del sistema penale minorile, ma la tua adesione è soltanto formale, il recupero non è realmente avvenuto e quindi ti cucchi altri X mesi di messa alla prova oppure vai a sentenza. Ecco, questa secondo me è una peculiarità abbastanza del sistema penale minorile, e la domanda che vi facevo io è se secondo voi questa peculiarità, quindi dell'adesione escludente formale che non è più sufficiente, è qualcosa che si può espandere, che si espanderà e quindi che si vada sempre più verso una psicologizzazione sempre maggiore di quello che è la persona reclusa, oppure invece se è qualcosa che si perderà, ecco, giusto per fare un ragionamento in là. Mi piace pensare, ora mi chiudo e finisco, al sistema penale minorile come un luogo in cui quando vi si accede si delinea in maniera netta quella che diciamo è il dentro o fuori, quella che è la barricata. Non è possibile stare con un piede da una parte e un piede dall'altra. Il tentativo di recupero e quindi reinserimento alla società è quando si è ancora tutto sommato giovani ed è netto. O torni all'interno di quelli che sono i ranghi oppure vi sei escluso. E se vi sei escluso non c'è più possibilità di mediazione. Ecco, quindi finisco dicendo che i due lati che vengono spesso definiti, soprattutto dagli operatori del sistema penale minorile, assistenza sociale in primis, che sono delle figure centrali all'interno di questo sistema, come due facce contrapposte, quello punitivo e invece quello rieducativo. Di solito si narra come il sistema punitivo sia quello che caratterizza il carcere dei grandi, diciamo così, e quello rieducativo invece del reinserimento del sistema minorile. Ecco, in realtà non siano altre che due facce contrapposte di una stessa medaglia che vengono utilizzate in maniera arbitraria ma ben scientemente precisa e chirurgica in relazione a quello che è la posizione, la postura che la persona indagata e perseguita mantiene davanti a quello che è il banco del tribunale. Io. Ma se mi aggiungo due cose, mi sembra che quello che, beh, a parte che sono contento di essere qua e di avere questa possibilità che sembrerebbe fortunatamente nella drammaticità del momento, però finalmente ci sono come dire, degli spiragli in cui finalmente si è scoperto che esiste il beccaria al di là della componente militante, no? Io ho sempre pensato, insomma, che le persone. Cioè, che parlare di beccaria, parlare di chiusura del beccaria, mettere in discussione il carcere minorile sembrava quasi impossibile, soprattutto negli ambienti del cosiddetto terzo settore, persone che sono implicate con questa istituzione. Invece mi sembra che oggi, dico fortunatamente, poi sarà da guardare bene, però soprattutto. Dopo le cronache giudiziarie, mi sembra che si sia aperto una possibilità in più che non era, insomma, scontata. E quindi questo mi sembra un elemento interessante e da guardare come possibilità. Mi viene in mente questa cosa per attualizzare un po' quello che sta succedendo. Questa settimana intorno al Beccaria hanno messo un filo spinato a doppia spirale a circondare tutto il Beccaria. E mi sono letto come si chiama, quello che affiggono gli appaltatori, quello dei lavori, e parlava di 300.000 euro. E non lo so, mi sembra che già questo sia emblematico e va al di là, e va al di là del, come dire, cioè non c'è neanche più un'ipocrisia, no? nel raccontare che cos'è quell'istituzione, quell'istituto. L'altra cosa che appunto tu dicevi sulla fine del 2024, dopo Caivano, dopo tutti questi dispositivi nuovi di legge, siamo ormai già al 55-60% dell'aumento delle detenzioni, che sono tantissime, che anche questo è un fenomeno che non ha mai attraversato gli istituti penali minorili, il sovraffollamento. Il sovraffollamento era una cosa che si poteva dire tutto degli istituti penali minorili, per quanto mi riguarda non c'è mai neanche stato il periodo d'oro del Beccaria del carcere modello. Poi è vero che probabilmente quello che è successo negli ultimi anni non si era mai visto, però effettivamente il sovraffollamento invece non si era mai visto. Oggi in Beccaria ai gruppi si arriva a 15-16 persone, che vuol dire che nei celloni sono arrivati ad essere in 6-7, dove non c'è un centimetro quadrato calpestabile. Quindi pensate voi che cosa vuol dire questa cosa, insomma, il fatto che poi questi ragazzi hanno, soprattutto i gruppi, hanno 14-15 anni, è chiaro che poi si parla di rivolte, di incendiare le celle, di tutta una serie di questioni che mi sembrerebbe anomalo il fatto che non succedessero, no? Il fatto che in condizioni così. Aggiungo un'altra cosa rispetto alla questione del meccanismo per cui, perché interessa, cioè poi magari non lo so, non vorrei riproporre, che magari lo facciamo settimana prossima, tutto il lavoro che abbiamo fatto con questi ragazzi, con questa ventina di ragazzi del Beccaria, che hanno attraversato il Beccaria, altri istituti penali minorili, e con Renato, perché è interessante. Noi abbiamo fatto un lavoro che tratta, che segna un percorso, no? Perché c'è un prima, fondamentalmente, cioè quello che noi a un certo punto ci siamo interrogati, che è venuto fuori parlando con i ragazzi, cioè il Beccaria a un certo punto è, ci impatti, lo vai a incontrare questo Beccaria, però quello che ci chiedevamo e che ci siamo chiesti insieme ai ragazzi, perché uno va a impattare col Beccaria, che cosa c'è prima, no? E questo è molto interessante se lo guardiamo nella composizione sociale che ci siamo detti. Effettivamente oggi al Beccaria il 60%, 70% dei ragazzi sono stranieri, di quel 70% il 90% sono minori stranieri non accompagnati. E quello bisogna guardarlo bene, perché ci dice di un sistema cosiddetto di accoglienza che non funziona, che li respinge sulla strada. È chiaro che quando c'hai 14-15 anni e vivi in strada, qualcosa devi pur fare. E quindi da lì nasce l'incontro col sistema giudiziario minorile, con il Beccaria, e arrivi dentro lì. E arrivi dentro lì non a 14-15 anni, con un tuo portato, con una tua storia personale di implicazioni tue, non conoscendo la lingua, in un posto dove si parla solo italiano, e con quel tipo di dinamica che avete raccontato, che qua dentro sappiamo. Quindi è da lì che poi si sviluppa tutto un processo che determina gli anni successivi, i mesi successivi. Dico questo perché l'altra cosa che è proprio di questi giorni, che è legato anche ai decreti di sicurezza, alle nuove circolari e al nuovo ordinamento penitenziario, tutte queste. Alcuni ragazzi che hanno fatto le rivolte a Bari hanno preso 6 anni di condanna. Oggi quelli che hanno fatto le rivolte a maggio, a luglio, sono tutti e hanno questa imputazione. E capite che sono in prospettiva anni di galera. Io conosco tantissimi ragazzi che sono entrati, che dovevano scontare 5, 6 mesi, 7 mesi e poi hanno fatto 3, 4 anni, perché poi si ritrovano all'interno di un istituto, di un'istituzione così, e quindi che cosa si riproduce? Si riproduce appunto, io mi ribello di quella situazione e accumulo denunce, accumulo segnalazioni e accumulo mesi di carcere dentro in un meccanismo del genere. Quindi dico questo perché è all'interno di un anche per rispondere un po' a quello che dicevi tu. A parte, l'altra cosa è che la messa alla prova adesso è contemplata anche per i maggiorenni, quindi in realtà questo dispositivo di legge in qualche modo è già traghettato anche sugli adulti. Poi io non so nello specifico quando si può accedere a questa misura, però è interessante quello che dicevi tu, perché effettivamente il sistema penale minorile è legato alla premialità, è legato alla dissociazione, è legato a negare, non è praticamente, è nella cultura diffusa che gli avvocati, anche quelli bravi, quelli che ti fanno uscire dal beccaria, l'indicazione è comunque quella che devi ammettere di aver commesso il reato. E questo comunque è una torsione non da poco, una torsione identitaria, soprattutto se ci troviamo di fronte agli ultimi casi, che io a memoria storica non ricordavo di persone recluse in CPA, in beccaria, per manifestazioni di piazza, e il dispositivo comunque di legge, parlando con quei ragazzi, parlando con i genitori dei ragazzi, è questo: gli stanno chiedendo tutto il percorso, perché tu comunque hai commesso un reato, il reato è quello di manifestazione di piazza, e il lavoro che stanno facendo gli educatori, che stanno facendo i servizi, che sta facendo il giudice, è quello di andare verso una messa alla prova, quando ci sarà, però il lavoro che si fa è quello di, che tu comunque devi riabilitarti dal fatto di essere sceso in piazza fondamentalmente per il genocidio in Palestina. Cioè, quindi questa cosa io le sottolineo, perché sono, secondo me, sono degli elementi interessanti che si possono andare a guardare. L'altra cosa, poi fermo, è questa roba qua, io ci metterei attenzione sul fatto che comunque la maggior parte e sempre di più dei ragazzi che finiscono al beccaria sono stranieri, e questo è all'interno di uno sguardo che, se vogliamo, politico più globale, voglio dire. Appunto, dicevo prima del sistema di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati, che viene abbandonato nella maggior parte dei casi. I ragazzi, quando vengono inseriti in queste, dopo tutto un percorso di, appunto, di scelta, di autodeterminazione, di ostinazione, di arrivare in Europa, la prima cosa che incontrano è il carcere, che poi lo si chiamano centri di prima accoglienza o con altre paroline più belle, però di fatto io i numeri non li so che sono migliaia i ragazzi che vivono in strada a Milano e nelle grandi città, e sono tutti scappati dalle comunità. Quindi questo già ci dice qualcosa, e dopodiché quello che si dà in barba a tutte le norme, anche internazionali, sull'accoglienza, sui diritti dei minori, e queste cose vengono disconosciute, e l'altra alternativa è la strada, un sistema d'accoglienza che non funziona o il carcere minorile. Per gli adulti è ancora peggio, e dopo che ti sei fatto i mesi nell'istituto penale minorile, in cui si dice appunto che qui si parla di rieducazione, nel 90% dei casi i ragazzi non si ritrovano alla casella di partenza, nel senso che escono e non hanno la casa, non hanno un lavoro e spesso non hanno i documenti. Che questa è la cosa più drammatica in assoluto. Tra l'altro, una cosa noi lo raccontiamo nel lavoro che abbiamo fatto, è quella degli alias, cioè dei nomi falsi, delle età false. C'è un numero gigantesco di questi ragazzi che dichiarano delle identità false per svariati motivi, ma è più semplice per cercare di sbancarsi nell'idea che appunto il minore dovresti essere trattato meglio. E quindi anche quello è un tema che non viene. Prima c'erano alcuni avvocati, alcuni educatori, alcuni assistenti sociali che su quello ci lavoravano, nel senso che comunque veniva fuori questa cosa qua, come dire, sul crinale riuscivano poi a regolarizzare questi profili. Ora non c'è neanche questa possibilità, e questo è drammatico, perché chiaramente tu a un certo punto rivarchi la soglia dell'esterno, ma sei nella stessa situazione dell'inizio, e quindi sei all'interno di un giro dell'oca, insomma. Non lo so, sono tante le robe, le implicazioni, però boh, rispetto a quello che io non mi ero preparato nulla. E poi un'altra cosa che mi viene da dire è sulle parole, che è importante. Noi lo raccontiamo bene, ce lo raccontano i ragazzi, no? Dico due robe che secondo me è importante. Uno è la cosiddetta terapia, cioè che viene detta terapia, che di terapeutico non ha nulla ma è solo contenzione farmacologica. E quello è importante da dirlo, perché poi nelle narrazioni, nei racconti si dice, no, alla fine, no, in Beccaria sono tutti pazzerelli, no? C'è una percentuale così alta di persone, e questo si sviluppa anche in progettualità e leggi. Tant'è vero che in Lombardia e in Sardegna hanno stanziato una quantità di soldi assurdi per costruire delle comunità cosiddette a tripla diagnosi, no? Quindi che hanno commesso reati, che hanno dipendenze e con problemi psichici. E queste comunità prendono la retta da 300 euro al giorno, che è paragonata alle rette degli altri, e quindi tutti si stanno buttando su questo business. E questo business a Milano, che hanno partecipato per vincere questi bandi, sono gli stessi che poi gestiscono il CPR, quindi diventa interessante. No, e lo dicevo proprio per questo. Lo dico perché appunto, cioè, quello che registriamo noi è il contrario, nel senso che come cazzo fai a stare tranquillo in una situazione così, in un inferno? Altro che, cioè, sei pazzo se non reagisci, se non ti ribelli, se non ti... Mentre la narrazione adesso è di dire, ah, ma in Beccaria i minorenni sono tutti con dei problemi psichici, per quello che usiamo tanti farmaci. In realtà è una terapia, non è una... Invece è chiaramente una contenzione farmacologica. L'altra roba è l'autolesionismo, che viene raccontato così, cioè mi faccio del male, e questo è da anni che si dice così, no? Che nel carcere ti fai del male perché c'hai un profilo borderline, tendente al suicidio. In realtà quello che noi abbiamo registrato è che se ti viene negato tutto, se ti viene negata la parola, l'unica cosa che io ho di fronte a un umano è quello di farti vedere il mio sangue. E quindi c'è anche tutto anche lì, se tu mi neghi di chiamare mia madre, che non la sento da 2 mesi, al mio vicino per non si sa quale coincidenza o quale fortuna può chiamare sua madre, è chiaro che a me non resta che farti vedere il sangue. In altre situazioni invece mi organizzo insieme agli altri e ti rado al suolo la cella, il reparto. È un'altra cosa che in realtà mi ha messo in difficoltà negli ultimi mesi. In realtà i lavori erano finiti, però 2 reparti sono stati completamente rasi al suolo dai ragazzi. Quindi, cioè, questa cosa qua che poi ha creato l'ulteriore problema con il sovraffollamento, perché non sanno più. E l'altra cosa che sta succedendo è quella che tutti adesso, appena compiono 18 anni, finiscono nel carcere degli adulti. E paradossalmente alcuni ti dicono meglio stare a Bollate che stare a Beccaria. Che poi non è questo, il meglio in carcere non è che... Però la dice rispetto poi alla narrazione di come sta precipitando gli IPM. Ne vogliono costruire dei nuovi, cioè gli unici ragionamenti che stanno facendo di tutta sta storia, ecco comunque che... cioè in preventivo hanno già messo i soldi per costruirne degli altri. Scusate, mi viene, vado in... Scusa, questi centri di cui parlavi a 300 euro di diretta ci sono già? Sì. Qui a Milano? In Lombardia, adesso in Lombardia, no, Milano no, Lombardia adesso non so... Ma da poco però, no? Sì, è una cosa recentissima. Hanno fatto il bando quest'estate. E non si trova, io ho cercato di trovare. E non si trova l'informazione. Si trova poco. C'è il bando lo trovate? Il bando lo trovo. Questa cosa della tripla diagnosi. E delle 300 euro che chiaramente è fuori mercato rispetto a quello che era il mercato a ribasta. Tant'è vero che l'altra questione, che noi la leggiamo in un modo diverso delle comunità, perché uno dei problemi è che se voi andate all'USM, servizi sociali di minorenni, gli educatori, gli assistenti sociali, ti dicono non sappiamo dove mandare i ragazzi perché le comunità chiudono. Qui sarebbe da capire perché chiudono bene e quanto sono inadeguate le comunità. Cioè, noi ad esempio sono tanti ragazzi che ti dicono meglio il carcere della comunità, perché almeno il carcere non è ipocrita come la comunità, nel senso a livello di norme, di restrizioni, di come uno sta, però di fatto sono poche le comunità che funzionano, in cui, che è la stessa cosa dei minori stranieri non accompagnati. A me è capitato di incontrare dei ragazzi che decidono di rimanere nelle comunità perché incontrano delle persone dignitose in una situazione di dare l'opportunità e uno decide di rimanerci. Purtroppo no, non è così. È chiaro che il sistema delle comunità viene completamente sbaragliato e questo è anche un meccanismo che succede negli adulti, che comunque con il sovraffollamento, con nuove modalità di reclusione, si stanno attrezzando delle forme di reclusione che vengono chiamate comunità, ma di fatto sono delle forme di carcerazione, no? Quindi, e questo sicuramente, prima c'era una comunità con la triple diagnosi, secondo me, c'hai le spalle alle finestre, c'hai la condizione farmacologica, c'hai le chiavi, cioè. Adesso io non lo so con certezza, questa roba sarà da guardare con attenzione, però è un analizzatore di quello che sta succedendo, di quali sono poi gli spazi in cui vengono messe queste figure perturbanti, così insomma, che si chiamano poi appunto. Discorso diverso è per i ragazzi italiani, che sarebbe noi l'abbiamo guardato poco, quelli dei ragazzi italiani, perché proprio in proporzione sono, la maggior parte sono ragazzi stranieri, quindi. Perché poi dentro, cioè è un contenitore in cui, non so se lo diceva lei o tu, anche questa roba, voi pensate che in alcuni, adesso meno, ma per un frangente c'erano ragazzi di 14 anni e ragazzi di 25 anni che condividevano gli stessi spazi, e quindi già questo è, ci sono delle dinamiche che non funzionano. Pensate, italiani, stranieri, reati diversi, biografie diverse, insomma, cattività che produce cattività, insomma. Chiederti se tu avessi delle informazioni sul femminile invece, perché che io sappia ce n'è uno solo in Toscana, con Tremoli. Ma con pochissimi posti oscillano tra le, allora prima del decreto che arrivava eravamo arrivati a 9-10 ragazze in tutta Italia, quindi anche lì era l'assurdità che si diceva, che insomma, qualcuno diceva, il fatto di comunque qualsiasi cosa abbiano fatto queste ragazze, cioè nel senso, ragionando in termini, 9 persone sono veramente un numero, eppure erano in carcere con questo regime. Adesso arriva 17-20, sono questi più. Ma che tu sappia, è prevista la costruzione di nuovi istituti femminili? No, sui femminili sai che non so, la roba anomala, che ad esempio la Beccaria, e è successo a Mina, il CPA invece può fungere anche per le ragazze, che questo è un'altra bruttura, perché comunque vuol dire che tu, un ragazzo appena arrestato, che questo è uno dei momenti più tragici per chiunque venga arrestato, figurati per un ragazzino, vuol dire isolamento, perché chiaramente stai in una cella da solo. Poi lì fortunatamente c'è stata una pressione che non avevano mai sentito in Beccaria, perché comunque alla fine sono abituati che la gente che entra è figlia di nessuno, sono da soli, no? Lì c'è stata una pressione, quindi c'è stata attenzione, gli educatori di solito alle 3, alle 4 spariscono, lì sono rimasti, però immaginano, cioè la ragazzetta pescata in metropolitana a fare il borseggio, comunque prima della decisione del GIP si fa 3 giorni, anche se in realtà per norme di legge dovrebbero rimanere 3 giorni, ma in Beccaria c'è gente che è stata 9, 10, 11 giorni in CPA in attesa della decisione del GIP, e se sei una ragazza e se sei da sola te lo fai come se fosse un isolamento fondamentalmente, perché comunque sei in cella, cioè in una cella da sola. Ma pensavo alle due questioni che hai posto. Io, come dicevo, non ho una grossa esperienza sulla questione del minorile, ho un certo trascorso con i minori stranieri non accompagnati, che ho seguito per molti anni, in tanti, e di loro nessuno è finito al Beccaria, però insomma le loro storie diverse avevano delle, e l'impressione che io ho avuto subito è che l'istituzione, che a Milano risulta anche essere una buona istituzione, perché c'è molto personale, ci sono molte strutture, come dire, è una, ha una buona fama, ha la postura di introdurli nel mondo adulto del lavoro e nello specifico del lavoro che a Milano serve, cioè l'edilizia e la ristorazione. Il canale che viene offerto a questi ragazzi, che sono a volte anche piccoli, è di seguire dei percorsi formativi che li portino là. Cioè non c'è nessuna attenzione al fatto che sono piccoli, no? Perché quindi magari hanno bisogno talvolta di qualcosa di più che non una camerata, che hanno la famiglia, se ce l'hanno, lontana. Molti ce l'hanno, e molti la sentono, però è un'altra cosa. E a quelli che sono le loro interessi, cioè sono dei ragazzi particolari che non sono piccoli, no? All'occhio di questo trattamento hanno già un'imposizione, quindi è come se fossero spinti su un'adultezza e lì si capisce come dei meccanismi di rivolta che tu puoi avere ancora prima di entrare in un istituto che ti contiene, ma che è sì, la comunità, il corso, no? È di rifiuto questa cosa, sono elevati. E quindi, se vuoi, il percorso, diciamo, l'esito del Beccaria è un esito anche per quelli che sono seguiti in qualche misura da queste strutture che in qualche modo vivono attraverso questo. Quindi io non saprei se è una lente senza dubbio, non c'è alcun dubbio. E vabbè, ora non è argomento qua, però sì, anche quello che succede nelle scuole, diciamo, c'è questa attenzione disciplinante. Io dicevo prima che loro hanno qualche grado di libertà, sicuramente gli stranieri che arrivano ce l'hanno, perché appunto non hanno acquisito dentro questi meccanismi di autodisciplina. Peraltro questa è una storia che l'Italia ha visto molto forte anche negli anni 70, perché là c'erano l'emigrazione interna e quindi c'era un diverso modo di rapportarsi verso la rigidità della fabbrica. Vabbè, è tutto un altro discorso, però questi ragazzi lo portano questa cosa qua e da un certo punto di vista diventa problematico, no? Quindi una lente senza dubbio. Non so se è una roba che si può dire che si faccia della sperimentazione. Molto interessante invece anche l'altra questione che tu dicevi, cioè su questo che viene negato un'adesione meramente formale, questo è tremendo. Poi va visto cosa vuol dire nel caso specifico, anche formale delle volte, cioè non meramente, ma anche, non so, io mi ricordo uno di questi ragazzi che è al tribunale, ha rischiato, ha fatto la messa alla prova, ha rischiato di andare a Beccaria e gli dicevano: ma tu ti sei pentito di quello che hai fatto? E lui stava zitto. E gli dicevano: ma tu ti sei pentito di quello che hai fatto? E lui stava zitto. Poi a un certo punto ha tirato sugli occhi e ha detto: io di questa cosa non ne voglio parlare più. No, come dire, è un mio diritto di chiudere questa questione. Là non è stato facile, perché non andava bene per niente, questa cosa qua non andava bene per niente. Il fatto che ti venga richiesta un'adesione più che formale, cioè che si vede anche nelle pieghe delle cose, non solo nei gesti, no? Io ti chiedo di fare 10 cose, magari le fai tutte, però non mi convinci, è fortissimo. Questo probabilmente con dei ragazzi lo puoi fare, e con gli adulti anche in realtà un po' si fa, non è che lo si fa. Ma in parte il sistema premiale lo fa già, lo fa già. Nel senso che magari non c'è una roba forte legata al momento di sentenza, ma in teoria si viene processati per quello che si pensa che la persona ha fatto, però poi tutto quello che è il trattamento del detenuto all'interno del carcere oggi, qualsiasi circuito ci si trovi, se c'è una richiesta implicita di adesione ai percorsi riabilitativi per accedere alle cose grosse. Poi chiaramente in generale, cioè dal piccolo al grande, questa cosa è vera, è probabilmente vero il travaso, nel senso che effettivamente un tempo era forse più il minorile che aveva un approccio molto paternalistico e invece la galera da grandi boh, ti lasciano un po' più stare. Adesso per come sta evolvendo le modalità del carcere, della gestione delle persone in carcere, questa cosa diventa sempre meno vera. E comunque, cioè, in Italia ci sono ancora 15 detenuti che sono dentro dagli anni, fine anni 70, perché non hanno ancora chiesto scusa. Quindi, cioè, è una cosa che probabilmente, ha sempre fatto parte della modalità di punizione dello Stato. Poi si dava maggiormente dentro, cioè, per quanto riguardava il diritto penale minorile, perché ti senti anche padre, non solo Stato, ma ti senti anche quella versione là di padre. Però penso che purtroppo questa cosa andrà in peggioramento. Secondo me anche la questione, cioè la risposta a tutti i decreti che tu hai citato, tutte le varie mostre che hanno reso più piene le prigioni per minori, rispondono a un'esigenza, pericolo che lo Stato al momento si dà, e tra le sue minacce da un po' di anni a sta parte ci mette anche appunto i non organizzati, queste gente che viene dalle periferie, che al momento è minorenne, però poi crescerà e riempirà le prigioni o le fabbriche, però effettivamente, cioè, hanno risposto a un'esigenza mirata di reggimentare, disciplinare, reprimere una popolazione che stava sul proprio territorio, che era una cosa diversa fino a quello che si era visto in quel momento lì, e che quindi aveva bisogno del carcere come nel risposta, e non certo del percorso di rieducazione o reinserimento, che poi non ha mai funzionato veramente per nessuno. No, Tommaso, è una roba che è un po', quando tu dici che in realtà negli istituti penali minorili e in beccaria, anche se appunto, cioè, passano meali, non ci sono possibilità, le attività fanno cagare, cioè cioè i ragazzi, se tu gli dai la possibilità di imparare a fare un mestiere, molti lo vogliono imparare, cioè in senso è una possibilità come altri. Quella roba lì non è proprio contemplata, cioè proprio non c'è, cioè, un'infantilizzazione e una contenzione, basta, cioè il resto non ci sono più attività di valore, cioè c'è, cioè, laboratorio di panificazione, cioè c'è forse quello di quadri elettrici che è un così, che però per arrivare lì è proprio una dinamica premiale, cioè proprio, diciamo, il beccaria è così, cioè poi tanto c'è, cioè, la statua di beccaria lì si ti guarda, principio di ministra, cioè, e quella roba lì è proprio tutta premiale, tutta, cioè ci sono i gruppi e il paradiso è l'avanzato, perché l'avanzato perlomeno c'è la parte, c'è il sovraffollamento, c'è una gente solo, quindi tutto è per dire, cioè devi dimostrarmi che sei diventato bravo e allora c'hai qualche possibilità in più di stare un po' meglio. Vabbè, comunque siamo nel periodo, sì. dico dell'esclusione, quindi anche l'idea che comunque è sempre stata falsa, ipocrita, del recupero, però adesso che non c'è bisogno di recuperare, no. Perché non c'è bisogno di manodopera, non c'è bisogno di essere da sfruttare, quindi, o perlomeno di un quantitativo che è molto inferiore alla disponibilità umana, cioè, che tanto c'è. È vero, voglio dire, figurati te se hanno bisogno di aiuto, hanno restituito i lager in Albania, sì, cioè, nel senso, infatti. Quindi, cioè, volevo solo dire una cosa sulla questione psichiatrica che dice, cioè del terzo, della tripla di anni, della tripla diagnosi, che quella è pericolosissima, perché esistono già adesso degli istituti, noi abbiamo con Olga abbiamo uno che corrisponde da una struttura media. L'intensità, cosa si dice, non mi ricordo. Comunque non so neanche quale, non mi ricordo il termine. Comunque diciamo la media intensità, questa struttura. Comunque sia, lui dice che non, una volta che sei definito appunto hai la pericolosità sociale, prima che te la tolgano, adesso uscirà una lettera che pubblicheremo appunto su Olga nel prossimo bollettino, perché è incredibile, lui dice che ha vede la psicologa, la psichiatra, il gruppo, l'educatore, e tutti questi fanno dei resoconti, no? Rilasciano loro, ma non contano niente, perché poi quando arriva il momento del rinnovo, dice, viene fatto lì in ufficio. Ma dice, allora cos'è che mi fate tutti questi resoconti? E quindi quando, se in un istituto, in una comunità, subentra quella, certo, vuol dire che poi il ragazzo che ci entra per uscire da questa cosa qua, perché lì il fine pena diventa veramente, non dico mai, ma difficile, allora, difficile, perché va oltre alla definizione, alla quantificazione della pena, certo. E quindi se questo mi fa proprio paura, questa cosa che hai raccontato stasera, c'è da stare un po' dietro, sì. Secondo me è un'altra cosa molto interessante che nel processo minorile sostanzialmente salta quello che è il diritto alla difesa, perché l'intero processo si svolge attraverso la propria autodifesa. In base a quello che la persona imputata dice, c'è una decisione in seguito, e l'avvocato tendenzialmente non parla, perché non è strutturalmente preposto uno spazio all'interno di cui l'avvocato parli, tranne se si va poi a dibattimento, ma la maggior parte delle volte non si va a dibattimento perché si interrompe prima il ciclo, diciamo, all'interno del tribunale, no? E quindi questo secondo me è quantomeno un fatto grave, ecco. Sì, perché è appiattito tutta quella figura lì. E gli avvocati bravi, nel senso adesso brutto, cioè dell'istituto, del dispositivo dell'impianto giuridico minorile, sono quelli che in qualche modo accompagnano in questo... che in alcuni casi, cioè, va anche bene, no? Però è proprio in questa dimensione della rieducazione, no? Quindi di ammettere la colpa e di dimostrare che sei propenso a fare un percorso di... Sì, ma quello e che quindi, chiaramente, dire è che proprio non è prevista nemmeno la possibilità, sì, che ci sia una difesa tecnica. No. Cioè, ti scagiono perché non era proprio il motorino. Non è possibile questa cosa. E quindi... mi è stato raccontato, ad esempio, dal mio avvocato di casi in cui per seguire quella via, anche se realmente la persona non era quella che aveva commesso il fatto, sarebbe stato molto più svantaggioso rispetto che dire sì, sono stato io, ho fatto proprio una cavolata, mamma mia, sono un ragazzaccio. E questo avrebbe assicurato il perdono giudiziale, anche se effettivamente non c'è stato uno scambio di persona oppure x altri casi. E questo secondo me è inquietante. Abbiamo raccolto una testimonianza di un ragazzo, cioè un amico che veramente, cioè lui tentato omicidio, e lui diceva io non c'ero, no? E l'avvocato a un certo punto, dopo due mesi che è in beccaria, gli dice di che ci sei, così andiamo a rito abbreviato e ce la caviamo con 5-6 anni, cioè, capito? E lui dice no, io non c'ero, non ero io. E fortunatamente lui si è impuntato, però era da solo, cioè poteva venire, cioè si affidava all'avvocato, l'avvocato gli dice di che c'è, no, io non c'ero. Alla fine è riuscito a uscirne perché hanno fatto il confronto e la vittima ha detto no, non era lui, cioè, capito? Però questo si è fatto da solo a 17 anni su un con l'avvocato che gli diceva lì che sei stato tu. Immagino se poi fosse stato che non capiva la lingua. In più quello, lui lo racconta, dice che non capiva la lingua. Cioè, c'aveva quel problema. Ah, però è stato proprio bravo. Perché sono bravissimi. Perché quella che bravissimi. Dice lei, che loro è a loro di dire, no? Di dimostrare le cose così. Immagino in un contesto in cui uno non capisce i termini giuridici. Io c'era stata una scena a Buffini che diceva dove ti vuoi domiciliare? E questo è proprio. Cioè, come i domicili presso la comunità, l'avvocato, qualcuno, guardavo, per dire una cosa banale all'interno della no, insomma, la parte iniziale era già fermo tutto, difficilissimo. Sì, il domicilio è un'altra questione, perché appunto la maggior parte di questi ragazzi, no, gli stranieri non hanno domicilio, quindi non puoi accedere a misure alternative. Questo è un casino, anche per gli adulti. Sì, qua era stato domiciliare per una pizza, cioè ti mandiamo. Infatti è una cosa curiosa, cioè ci sono degli ambiti che, cioè, occupandoci di carcere, ci sono delle cose che non ci stupiscono più di tanto. Cioè anche questa cosa qua non è domicilio, non puoi fare domiciliare, è uguale per il carcere, così come tante altre cose sono uguali. Ci sono delle altre che però sono molto diverse. Che però non è che sono così diverse che sono inimmaginabili, ma sono un po' alla rovescia, come in alcune situazioni del carcere. Per esempio, quello che diceva Irene prima, per esempio, che non è tanto più il reato che conta quanto più il giudizio complessivo sulla tua persona, qualcosa che ha, per quello che vediamo sul carcere, per alcune cose, tipo quando è la pericolosità sociale, ti si ripresenta. Infatti, quando lei diceva, ma cos'è il laboratorio? Sicuramente un ambito di sviluppo di alcuni di alcune strategie, di alcune pratiche che fa fanno i sistemi carcerari, che siano minorili o per adulti, però è proprio un ambito di sviluppo di questa scienza qua, dell'accanimento sulla persona, che va al di là della questione del reato, almeno da come, anche perché, per esempio, dicevi prima la messa alla prova. La messa alla prova normalmente, se sei adulto, tu la fai come alternativa al carcere. Non finisci in carcere, tu sei già condannato e decidi di espiare, di fare la messa alla prova e la fai, la esegui così. Lì è al contrario, lì è come se fosse parte anche di una valutazione della tua persona, e poi dopo segue. Quindi quello sì che è un ambito di sperimentazione, cioè comunque un allargamento dell'ambito di quello che riguarda la punizione. Poi anche l'altra cosa, vabbè, ovviamente, secondo me questo aumento bisognerebbe andarlo a vedere anche in altri stati, che politiche hanno fatto. Voglio dire, negli Stati Uniti sparano ai minorenni da un sacco di anni, perché secondo queste politiche contro le gang, no? Cioè, alla fine sembrano degli adattamenti nostrani per i tempi che corrono, e bisogna marginalizzare un nuovo nemico pubblico di turno, adesso deve essere. Però è sicuramente l'ennesimo, anche dal punto di vista, allargamento della categoria dei pericoli interni dello Stato, quello è un altro ambito. Beh, non parliamo di quello che fanno nelle palestine occupate. Certo, stavo pensando qua. Cioè, adesso non i bambini uccisi, sto parlando dei bambini in prigione, cioè anche, detenzione. Sì, adesso anche però, tiro a piccione. Sì, quello, ok, però dicevo, insomma, lo sappiamo tutti, ma quanti sono i minori nelle carceri di detenzione amministrativa che poi li portano anche lontano, appunto, dalla buccia, cioè in Israele, che questo è proprio legalissimo, il fatto di trasferirli praticamente da Gaza o da West Bank in Israele, e i genitori, i familiari, i parenti non possono neanche andare a trovare. E ci sono adesso il numero, non lo so in questo momento, ce l'ho scritto, perché però sono tantissimi i bambini nelle carceri israeliane, separati completamente, appunto, e questa detenzione amministrativa che può rivenire, quindi anche senza aver commesso sul reato. E i piccolini, però, quelli, cioè, il venerdì, quando ancora la situazione era di normale una ghiacciante occupazione, tutti i venerdì c'erano i cortei nelle varie città e villaggi, e davanti sono sempre bambini piccolissimi. Tutti il resto è dietro, ma gli scontri avvengono tra ragazzini e indietro. Se noi loro davanti. Povero Giuseppe. Sono quelli che tiravano le pietre, cui Rabin voleva spaccare le braccia. Insomma, questo è stato ricordato come poverino ammazzato. Una debole. I popoli democratici rappresentati. Vabbè, insomma. Comunque là sono indomiti, secondo me. È piccolissimo.